Fammi intendere. Audio. Hola. Fammi secco. Audio. Fammi intendere. Audio. Claudio. Abige. Sì, c'è anche Gianni Capelluo qua. Chi è che è venuto al canale 10? Io sono qui. Giovanni, buonasera, Capelluo ti super cordializza. E ti ringrazio anche per le mail che hai mandato, molto gradito Giovanni, prendi. Sì, è positivo. Ma qualcosa da leggere. Poi vabbè, vedi un po' a fondo. Leggi bene, controlla, e così almeno un po' ti diverti anche tu, che vuoi. Tra amici si fa questo e altro, non c'è problema. Avanti Claudio. Scusate, mi dispiace, no? Io purtroppo sono abituato così. No, mi dispiace pensando, no? Non era un discorso fatto per poter chiudere il questione, era un discorso molto di logica e molto di intelligenza per chi usa la radio. E basta, non aggiungo altro, poi ognuno è libero di dire quello che vuoi. Gianni Capridue sta arrivando qua a 9:60, complimenti, 9:60. E anche tu Gianni Giaguaro, 9:60. È positivo. No, oggi attirano questi apparati, non c'è problema. No Claudio, ti dicevo, comunque lascia perdere, non cercare certi elementi, capito? Quello si nasconde sotto le ali del padre, però non sa, lui non lo sa, non mi conosce, capito, minimamente, ed è meglio che non mi conosca. Perché Claudio, lo sai che tu sia una famiglia, no? E non voglio tirargli uno schiaffo, perché mi basta un destro. Gli gira la testa che sembrerà una sveglia rotta. Quindi prima che succedano cose spiacevoli, è meglio che quella mondezza sia considerata come tale. Mondezza. Cioè mi dispiace, sì, capisco, ne hai tutti i diritti di rispondere. Ma quando una mondezza deve essere lasciato così come, così puzza nel suo secchio. Aspettate un secondo. E sono qua, sono qua. Mi senti, Capridue? E ti sento, Giovanni è un ragazzo, hai capito, no? Non banalizzare, hai capito, è un ragazzo, ho 30 anni di più, io no, è un ragazzo, bisogna anche lasciare perdere, capito? Io la penso così, dare poco sparo. Usa legge, o pensa la legge non si temo, non metti più fare. Io sono fatto questo, mi devo un mito nel luogo dei cammini, mi. E che lo so la sende belle a me. E tempo me da in una casa da caccia di sappi, di un primo macco, un gimpre, amico dei gimpres, e buh. E lo lascio vendere, mi. Lo lascio vendere. Ma se no è capace che si vuole che su babbo di cosa cacchi fare le a culo, a chi dico, non mi. Se non succede pure un usso, tra parentesi. Adesso manco un bicchiere, non dice proprio nulla, è un scemino, e boh, comunque, su una loro che si testa o altri, devo lasciare se va giù, non lasciare stare la qualità della salubrire sulla biologia, che schifo, no, non conviene neanche di polle, boh, punto, come ti ho fatto sempre vedere, ma a me sono rimosso, sai, in sala, ma va a cagare cosa, riprendi i Capridue. Dai zitto, mica stai rischiando le cuoia, a me non mi rompere i coglioni, capito? Non mi rompere i coglioni, se no ti giro il collo, come una lucertola. Mi chiedi questa cosa conca, puzzolente, mi chiedi non vedi questa cosa conca, lasciami stare a me. A me lasciami stare, vai, caga la inza, pezzo e mezza. Va a cagare, vai, Montonazzo, va a cagare. Ipinellato, alcolizzato e handicappato. Thank you. pensare che lui deve pesare le parole quando nei discorsi dice certa gente, deve stare attento che quella certa gente non gli tagli la testa, boh, tutto lì. Nara a cagare, capito? Piccolo, scemo e checca, tu sei una checca, a su sciaffo di debrinca tutto son dentes. Nara a cagare. Sì, ti basta, ti sappi tu che vedi che rimuoto vuoi, che va, Claudio. Claudio, avanti capri tu. Ok, prendo io. E molte volte anche mi fanno sorridere queste cose, ma allora però un pochettino di educazione io già hai capito che magari se vengo lì a trovare non sei, non ti fare tutta la volta, è così frequente, la frequenza è bella, te l'ho detto l'altra volta, nessuno ti vuole male, però usiamo in frequenza un linguaggio più pulito, dai. E lei te le usa cose importanti. O quando entra sui suoi canali, chi c'è sempre certa gente, se ne scappano perché certa gente. Pesa le parole che io sono capace di metterti un dito in culo, stai una settimana che lotti, stai attento. Mi dici di punto vuol di cadere, non ti deve essere manco da idea, mi dici solo la vicenda. Mi sta attento, vedo gente come ti attiene forza a correre a me. Se non è che ti dico pure, non mi rompa sul bottone. Capite, se non ti dico, ma che mi ha detto così in fianco. E si come si fa su culo, veloce, ma veloce però mi. Veloce, quando ho bisogno di frequenza che fai un carico non mi zitte, come non ti zitto Leo, tu con lì sei muscio, esci dai coltroni, via, mi prendi capri due. Meno male. Io allora, Claudio si è assentato, sì. Noi siamo qui comunque se vuoi bene. No, ho visto quella roba lì, Giovanni, mi era pensato anche come si chiama. Quindi quella roba hi-fi, quella roba lì con quelle valvole lì, quella è tutta la realizzazione tua. Sì, però devi andare avanti nell'immaginazione, devi andare avanti. Sì, no, tutta roba mia, ci sono anche i brevetti. Più avanti c'è, allora, c'è il protocollo digitale brevettato che è unico praticamente perché non è stato mai realizzato da nessuna azienda. Perlomeno a scoppi ubistici, a scoppi amatoriali non si è mai visto. È uscito fuori qualcosa dopo che io ho fatto quell'apparato, che comunque è stato subito picchettato da CHF perché chiaramente l'unica cosa per proteggere un brevetto è quello di pubblicarlo, e io così ho fatto. E ne sono ben felice perché mi trovo bene tutto lì. Però devi andare avanti, c'è il lineare per 27 MHz. C'è il Drake con il frequenzimetro digitale, ci sono parecchi apparati. Io che sì, ho visto, fino alla pagina 6, sono arrivato guardando. Ma io questo Piero Luigi Turri, dimmi, questa cosa qui ce l'ho in mente da fare questo nome, ma io ci ho già avuto a che fare con questa persona qui. Allora, Piero Luigi è praticamente un ingegnere elettronico, elettromeccanico, che ha a che vedere con grosse aziende, tra cui progetta anche impiantistica edile, è un po' particolare, via. Poi c'è Alberto Maltese, un altro progettista audio, mio collega. Poi c'è, oltre che Alberto Maltese, c'è anche Cosoli, quell'altro, come si chiama? Bartolomea Loia, che tu non lo puoi vedere perché esce pochissimo, è uno dei migliori in assoluto. Insomma, ci sono delle persone note, e Pierluigi Maturlo lo conosci perché sicuramente l'avrei visto in altri campi. Sì, senz'altro, no, il Turri mi ha colpito, non solo, perché gente ne ho visto tante, che quando non è l'arma venivano questi tecnici per i ponti, hai capito, io ero sempre lì perché era anche lì la mia passione. E poi c'è un amico che proprio insegna diritto, che insegna elettronica all'Università di Pisa, si chiama Piras, Sandro Piras, ed è all'Università pazienza, e quindi, però questo Piero Luigi ce l'ho in qualche cosa, e come ho visto mi suonava subito il nome con il nome. Sì, ma Marzullo non è un ubista, attenzione, Marzullo è un ingegnere a tutti gli effetti, come ingegnere è il signor Bartolomeo, che tu non vedi lì, non ti compare, almeno provvisoriamente non ti compare nel blog, non lo vedi così, capito? Comunque siamo tutto un gruppo di amici che ci aiutiamo a vicenda, per lo più siamo tecnici progettisti, informatici, elettronici, elettromeccanici, impiantisti, siamo tutti così, tutti legati uno all'altro, e ognuno espone le sue idee, le sue realizzazioni, diciamo così che ci sono delle grandi soddisfazioni fare quei lavori, però non deve essere nulla di copiato, attenzione, perché se copi ti mangiano vivo. Sì, molto bello, molto bello, no, sono affascinato, è entrato Pinuccetto su Moro, buonasera Pinuccetto. Oh Giampi, aumenta appena Pinuccetto. E gli arriva il Nook. Capito Capri? Quello che devi guardare, oltre a quello che hai già visto, devi andare avanti, guarda che le pagine sono sotto. C'è il lineare per la 27 tutto ben descritto, sempre con la valvola russa, eccetera, eccetera. E tante altre cose, tutto lì. Ci sono parecchie cose che puoi vedere. Non monta valvola L519 o del genere, queste valvole russe. Chiunque quel lavoro è una cosa molto bella, per quello la G7B si chiama, praticamente o in sostanza, ecco, si tratta di valvole metallo ceramica cui è applicato un dissipatore su a un bulone che dissipa appunto la differenza di anodica. Ti posso dare una gran bella valvola. Oltretutto ti permette un kilowatt e più di potenza sicura, specialmente in SSB, quello perché la diamatura la usa. In AM ne eroga quasi altrettanto, ma giustamente bisogna avere un buon apparato per evitare saturazioni e compagnia bella, possibilmente pilotarla con un HF. Esempio, io in questo momento sto usando il mio finale che eroga 1000 watt effettivi, se voi ovviamente, sempre parlo per uso amatoriale, in questo momento con 2 watt me ne sta dando 45 circa. Sì, però l'ho visto con la valvola in ceramica, ma qui sono reperibili quelle valvole, no Giovanni? Come sono? Sono reperibili qui queste valvole, oppure bisogna ordinarle? Bisogna ordinarle, ci sono anche in certi siti italiani, le vendono a ottimo prezzo, a buonissimo prezzo, eccetera, eccetera. Cioè problemi non ce ne sono, capito? Che nel mercato internet su ebay.com, buonissimo prezzo, praticamente non supera ognuna. Si tratta di una valvola sviluppata su uno zoccolo molto simile a quella baionetta, è concentrico il cattolo e il filamento alla valvola stessa, molto facile da utilizzare in senso proprio di zoccolatura, perché non esiste il pin sotto, i soliti pin così messi in modo, disposti in modo circolare, bensì sono concentrici alla valvola stessa, con attacco a ghiera, semplice come fosse una fascetta lo zoccola, capisci? Capito Giovanni, ho capito. E poi diciamo le alimentazioni, come sono quelle valvole? Allora, la massima tensione anodica raggiungibile è 2100-2150, c'è chi le spinge a 2007, però io me le limito sempre a 1368 volts, perché mi va va bene così e perché i miei progetti sono sufficienti così. Poi per chi la vuole spingere la può spingere, ma giustamente devi poi giustamente abbassare la corrente di riposo che va a un limite massimo di 50 mA, non di più. Capito? Non di più. Quindi bisogna fare i conti con la corrente di riposo, altrimenti vai fuori classe, non sei più in classe lineare, hai della bruttissima distorsione. Una corrente di riposo gli si dà sempre, o perlomeno. Tutti noi che realizziamo questi apparati usiamo quel metodo lì, 50 mA circa. Ecco, come corrente di riposo. E ti dico che va bene, va molto bene, molto molto bene. In questo momento è praticamente fredda la valvola, nonostante che io stia premendo portante già da un bel pezzo, lei lavora sempre in un range ottimale. Insomma, ci sono parecchie cose da vedere, però una volta sistemata, se hai un buon accordo di ingresso e di uscita, ti garantisco che funziona bene, molto meglio delle valvole tutto retro. Plus militare, quelli che io gli ho comprato qualche valvola audio e ti dico che sono rimasto soddisfattissimo. Loro hanno molto Philips, ma ti garantisco che hanno dell'ultimo materiale. Io mi fornisco da un mio carissimo amico che praticamente ne ha 40.000 magazzini di quella roba lì, e quindi problemi non ce ne sono, perché non ce ne sono, e niente, quando voglio ordino e spedisce. Ma ha veramente la roba surplus americana, e attenzione, non così, e quindi nulla, mi affido appunto a quest'uomo. Ma anche Esco non scherza, ha degli ottimi prodotti, tutto lì. Dai, facciamo riprendere il Pinuccio, sennò la cosa qui diventa due. Pinuccio, il caro Giannonico, confermi, c'è anche, mi hanno mandato roba, c'è anche la sua calligrafia, siccome il mio amico che mai sono i cammini colleziona queste cose, mi ha mandato proprio come fare con lo scritto di mano sua, cioè tre o quattro pagine. Io che lo conosco a Giannoni, non so lui se si ricorda di me, lo conosco telefonicamente, ma mi ha mandato della roba. Esatto, è proprio quella persona là. È proprio quella persona là, tutto lì. No, molto con me, è stato sempre molto amico e trattiamo bene da anni. Giustamente lui si fa pagare, per carità, perché voglio che si faccia pagare, non voglio niente gratis, mi ha anche fatto dei regali quando c'è voi, però ti garantisco che ha ottimissimo materiale surplus ed è il number one, secondo me, in tutta quanta Europa. Non ce n'è, perché lui possiede di tutto, per chi conosce. Ovviamente se iniziamo a parlare di trasformatori con calotte lucide, verniciate nere lucide, feticismo e compagnia bella, allora non bisogna andare da Giannone, allora bisogna andare sicuramente dalle Femminucce, però chi conosce quel materiale e lo sa utilizzare, ovviamente, è tutta un'altra storia. E a cosa è a Ventina, è sempre in olio qua? Sì, sempre lì, è sempre lì. Si era spostato un periodo che era Santa Croce su, ma adesso giustamente è tornato in sede, sempre alla sua villa. Ma adesso sa, c'è anche una certa età, io ci ho parlato, quanti anni può avere, è una certa età adesso a noi. Tranquillo, che ha più di 90 anni. Sui 90, diamo la lui. Ma lo devi sentire, è sempre simpaticissimo, è sempre prepotente. Sì, no, ci ho parlato, sono veramente a cui, diciamo, il dialogo piace, come piace a me parlare con le persone del genere. Veramente la stiamo facendo le corna, pensavo che la chiamo questo lì, hai capito, perché poi non avevo più ricontattato. Ogni anno più venivo a me con io, portavo a queste stazioni militari enormi, e capito, a piazzare, faceva arrivare roba, e così e veniva contattato Giannoni, e anche la Esco molte volte, dipende più. Però a furia di un telefonare minuto, Susanna non mi andava a comprendere una riassante, dipende io qua. Che ci ho fraccato. No, ma è strano, è la cosa. No, ma poi odia proprio il linguaggio di Pinuccio, cioè il linguaggio. Secondo lui è il linguaggio, non è la lingua. Appunto così mi ha detto, no? Ma cosa che parla sempre in sardo e io non riesco a capirne nulla? L'avrei voluto sentire il Pino lì con il discorso fatto a Giannoni. No, guarda, mi ha fatto morire da ridere. Perché poi è simpaticissimo fondamentalmente il Giannoni, Sì, io ci ho parlato, sono veramente... Mi hanno mandato con tre pagine di roba, ancora ce l'ho qui in questa roba. È scritta, l'avevo lasciato qui, l'amico mio. Come si riferiva, come si chiama, a delle valvole delle reti 60, mi sembra, c'è anche qui, dopo il domani ho guardato a vedere, ma proprio come bisogna per sostituire questa roba, cambia a fare un coro nei piedini della valvola, e lui si faceva porco, amico mio, perché è stato sempre fissato con la roba militare da piccolino, infatti poi diventare il babbo, era un appuntato di comini, lui era di muro, il padre per la madre friulana, lui è vissuto sempre. amici con Toro, lo sai. Sì, me ne ha parlato Giovanni Criminal, me ne ha parlato, lo conosce Giovanni Criminal. Vabbè, no, così no. No, no, con Toro sì, siamo amici perché appunto poi conosco la sorella, la famiglia e tutti quanti siamo compaesani, cioè concittadini adesso, e niente, molto molto in gamba, e Toro è simpaticissimo lo stesso, è una persona molto molto elastica, ecco, molto aperta. Il generale praticamente con me è sempre stato molto disponibile, ecco. Adesso uno di questi giorni appunto lo devo chiamare per dei favori, quindi vedo un po'. Comunque ho capito che lo conosce Attore. Scusatemi. Sì, Claudio, prego. Scusate, ma è arrivata gente e quindi adesso ho avuto 2 minuti l'occasione per purtroppo il mio vicino di casa a portarmi il fatto del tomate. Vi saluto, un abbraccio a tutti e perdonatemi per stasera, ma doverosamente ogni tanto mi vengono questi incubi, questi scatti, non riesco mai a trattenermi, ma comunque questa è una cosa tra me e Gianni da diverso tempo, quindi fino a quando non chiariremo bene le cose sarà sempre così. Scusatemi, ci sentiamo. Buonanotte a tutti, ciao Gianni Capridue, ciao a te Gianni Giaguaro, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, la più cordiale buonanotte a tutti, a Claudio Sparviero, a te Gianni Capridue. Ciao Grazie, fregatene, siamo a Natale, bisogna anche pazientare per domani, quindi saluti di famiglia, quelle aree, ci sentiamo alle prossime classi, mando avanti Pinuccetto per i saluti e poi farà girare per Giovanni. Ricambio il tutto e ricordatelo, a fare le macchie a Recci Sorri ti muffa e la billellera, no? A fuoco e la bella, così dicono. A me non mi interessa, Claudio, chi deve fare qualcosa non lo dice, lo fa, tutto lì. Già lo sai che ne abbiamo visto i bufere e io Claudio lo conosco bene, capito? E Claudio è una persona educata e corretta, non c'è bisogno di dire nulla, capito? Piuttosto Claudio, come ti ho detto io, a fare le macchie, a Recci Sorri, quindi Capri 2. Sì, perfetto Giovanni. C'è coso che c'ha gli apparati ma non li vuol piazzare. Ti avevo detto che Giovanni, che si chiama la Criminal, è presente di chi sto parlando? Ora non ho a fuoco la persona. E lui è stato maresciallo maggiore anche nell'arma, è paesano tuo e non lo conosci, era la scientifica. Non ci riesco, capito? Poi ripeto, io conosco così Toro proprio perché è di qua ed è più noto, ma gli altri ce ne sono tantissimi che sono arruolati così, e poi ne conosco mezza Sardegna lì di carabinieri, quindi cosa mi dici? Addirittura anche un mio parente di famiglia è carabiniere, ex maresciallo, che tu avrai conosciuto sicuramente, Continentale, e tanti altri, via. Io ci sono stato poco nell'arma, però già hai capito, già ne ho conosciuto perché ero con gli ufficiali, capito, ed ero anche concordo con tuo paesano, che mi sembra che sarà andato anche in congedo, lui mi sembra che proprio alle trasmissioni, Simula si chiama, Pietro Simula. Ti ha sentito parlare, ma non in questo momento non mi ricordo, anche perché poi Simula sono una famiglia molto grande, c'era anche Simula il partigiano, capito? Non so ora, non è sicuramente lui, o magari qualche cugino, perché sapevo che uno era volato nell'arma, ma ora vai a vedere. E lui era arruolato con me nel 78, sono stato un anno, poi facevo altre cose, capite, poi definitivamente non mi sono visto. E così comunque lasciamo perdere. Parliamo. sistemato la lavatrice. Il dottore già penso che una cura buona ce l'abbia, adesso glielo chiediamo, vero Giova? Per la realizzazione non c'è problema, bisogna trovare il tempo. Io principalmente sono impegnato su macchine computerizzate da 30-40 mila euro e non è che mi possa soffermare molto a giocare con il lineare o con il CB. non è molto produttivo, capisci? Un conto è farlo per un amico così, un conto è che poi uno si mette a impegno ma non se ne parla neanche. Prima viene il lavoro vero e proprio, quello che rende ovviamente, se non vedo soldi io infatti non funziono. Sono come quelle macchine a gettoni, se ci metti il gettone vado avanti, se no torno indietro. Si spegne anche il display, avanti lì, capri due. Sì, allora Giova, come se su U-Box, che hanno lo caricai che tagli 200 o 300 franco, so, che hanno qui alla sui nari si prima era sul disco. Ma andiamo su qui. Lavoro generoso, cioè non è che gli so, è a questo punto, però questo travaglio è travaglio, cioè, compreso, come appena lo seguo voi a San Fecas, e chi ne ha voglia, adesso sono impegnatissimo, stasera ho due PC davanti, tutto intento a sistemarli perché poi ci sono tutti i programmi di fatturazione, tutti i dati e compagnia bella, e questo è una cosa micidiale, sono apparati che vanno dalla mattina alla sera e quindi altro che lineari UCB, ma non tanto poi perché diventi ricco, perché niente, il filo del lavoro, non puoi tu lasciare, che ne so, un beauty center o che ne so, una pelletteria o una tapezzeria così senza il PC a posto o altre cose, perché poi lavoro ti dà lavoro, ecco come funziona la cosa, ecco perché non ho il tempo, tutto lì e basta. Anche perché oggi, diciamo così, che per seguire molto bene ricetrasmettitori bisogna avere dei negozi allucinanti, attrezzati, e poi non ci c'è nulla, alla fine fallisco. Non fallisco, uno gli va a mettere a San Marocai, le oro con la tua, le userà finché Dio gliele lascia usare, perché ne conosco tanti, adesso mi stavo parlando di Giannoni, che c'è una certa età, c'era anche questo amico mio che non ce li ha 90, però ha avuto sempre il laboratorio a Sassari, si chiamava Metaverde, non è attivo, vendeva anche apparati negli anni 70 lì nel laboratorio, quando c'era il mondo delle radio, ha lavorato anche per la Ricciarda e ha fatto questa roba lì a San Francesco. E diciamo che era sempre lì, adesso io non sono molto come ci passo, cioè ho una certa età, lui è del 27, quindi hai capito Giovanni, magari il tempo, cioè non so se guida, perché se si vede più bene, perché ha varie difficoltà di vita, quindi abita un po' lontanuccio, anche se abita a Sassari da lì, quindi non lo so, non l'ho più visto, però c'è aveva già delle mani d'oro, purtroppo altre cose non gli permettono di poter svolgere più l'attività, perché ormai è proprio vecchio, però ti dico che era un cervellone, un bravo tecnico, riprendi Pino. Infatti, no, questo aveva costruito, allora, costruiva i lineari, anche uno è qui, no, fare il suo materiale. È stato lui, non è lui il promotore di tutto, eh? Hai visto cosa è venuto fuori? Perché mi dicevano, non la sono dito, no, come la sua vocciona, a farlo, hai capito? E così sia. ne ho riempito il tuo blog in CHF e ci sono 11.000 letture, sono 1.500 nel forum, e 11.000 sono entrati lì, appunto, a parte poi post, a vedere, leggere, Russia, Francia, America, Germania, Hong Kong, e tutti a chiedere. Quindi immaginate un pochino di cosa si tratta, cioè non è che è una cosa da niente, basta vedere gli schemi, basta vedere il tutto, tutta roba mia pubblicata, perché non c'era nessuno, perché sono schemi miei, perché sono apparati miei e non si possono copiare, il bello è questo, e se li copiano mi devono chiedere l'autorizzazione, per favore, a scopo personale, punto e basta. Certo, non a scopo di lucro, vale. Io posso essere un bravo tecnico, Giova, per esempio con il copio uno schema, mi realizzo i circuiti, poi mi metto a vedere queste cose, capito? Se uno se lo fa, ecco, mi piace questa cosa per uso personale, che sia un altro per di maniche, però a farlo per poi da uno fare due, tre, quattro è una cosa, hai capito? Scopo di lucro, tranne soldi, i soldi li deve trarre chi il progettista, hai capito Giovanni? No, ma ascolta, Giannoli per avere questi magazzini, quindi ha fatto anche dei viaggi in America per pigliare tutto quanto questo bendidio che c'ha, perché io c'avevo un libro, c'ho un libro di radio cronistico militare e parla di questi che facevano i viaggi lì quando vendevano questa roba dismessa e in poche parole mi sembra che la vendevano anche a peso, confermi? Sì, in effetti lui ha i malloni, no? Di questa roba qua, si tratta di tonnellate di materiale surplus e ovviamente i viaggi erano correlati per poter ottenere tutto questo materiale e poi vai a vedere, già non è un trafficone, cioè parlo proprio in senso di come si dice? Fisico, no? Cioè contatto fisico con le persone che andava appunto a trattare, non è che era una cosa solo telefonica o a lettere, allora ai tempi, era proprio fisica, lui andava lì, si presentava fisicamente e acquistava, poi partivano le navi cargo con tutto questo materiale. Mi ha parlato di vari generali, colonnelli, tenenti, Malassorti, Bufala, Serraglio, tutta la gente che lo conosce, che è una cosa allucinante, capito? E comunque, ripeto, è stato lui a montarmi la testa, è stato lui, capito? Tra parentesi, anzi, tra virgolette, lui non è che ti dà tutta questa soddisfazione, stai attento, non te la dà. A prescindere da quello che lui sa già di me, perché è molto molto ben informato, forse più dei miei concittadini, ne sa più lui che, come si dice, che zumboglia, avanti Capri. Ok, però anche c'era il fatto, hai capito, che come ho detto in questi che spiegavano come facevano, diciamo, ad acquistare questo materiale, però c'era anche, come si chiama, ho letto nel libro, Giova, e c'era poi che non le potevi portare e dovevi arrivare solo a una certa quantità, se no l'altro rimaneva lì fermo quando passava alla dogana, non so, ecco, questo come si chiama, e infatti gente che c'era caricata di un sacco di roba, di queste cose bellissime, una certa quantità l'hanno lasciata lì perché non le hanno fatta passare, confermi? Sì, allora il problema della dogana era una cosa grossa, perché poi, non so, le conoscenze, era finito dentro per queste storie qui, e anche voi, non tutti ti danno mano a fare quello che vuoi tu, cose erano diventate un pochettino pesanti, perché la dogana poi era un po' come i controlli che facevano a quell'accidente, come si chiama, di alcolici. Allora quella passava come roba in nero molta, eh. Infatti, però diciamo che si è fatto una buona fama, capito? E roba, diciamo, adesso lo conosci tu, io che una volta mi ha chiamato il mio amico, lo avevo parlato anche io, e avevo mandato roba, anzi, di quelle parole che poi mi erano avanzate, che non era fatto a Claudio, perché io avevo un BC 312, ci avevano ancora, diciamo, il coso proprio della usarmi, il contenitore insomma di valvole metalliche, capito? E il mio amico invece acquistava, hai capito, proprio roba, perché lui è appassionatissimo di questa roba sul polso militare. Non so, adesso non l'ho più sentito perché ho cambiato il numero al cellulare, me l'avevo cambiato io anche il numero, e non pensando che poi lui non tornava più in Sardegna come veniva prima, perché lì lavora anche molte volte, va a fare anche queste missioni, diciamo, dove ci sono gli americani, capito? E quindi molte volte anche parte in missione, quindi non è che siamo così di vista, perché posso chiamare la madre, ma è anziana, non la disturbo, è la moglie, è nel mio paese, hai capito? E quando lo chiedo, molte volte mi dice, come missione qui, là, perché fa un servizio abbastanza proprio quasi alla frontiera, diciamo, che le frontiere non ce ne sono più, però c'è, come si chiama, fa servizio, proprio come si chiama, della frontiera jugoslava, di queste cose qui. Ok, adesso vi devo salutare perché è già una certa ora in cui io con la mia voce disturbo chi ha letto Giovanni. A me chiacchierare mi piace tantissimo, non so se vi siete accorti. Abbiamo lasciato a Pinuccio in parcheggio, però Pinuccio questi discorsi mi sembra che li apprezza. Dunque vi saluto per stasera, diciamo domani senz'altro riprendiamo. Hai capito, io non è che posso piazzare la stazione d'altra parte perché l'angolino su e qui la casa non mi permette molto. Va bene, signori, è stato un piacere, mi auguro buonanotte a tutti, vi lascio a Pinuccio, avanti Pinuccio.